Vorrei che si facesse in modo che la mia teiera e la porcellana e i miei castori più belli non dovessero andare all'asta, disse la povera Mrs. Tulliver con aria supplichevole. E anche le molle dello zucchero, il primo oggetto che io mi sia comperato. Ma non c'è niente da fare, lo sai bene, disse Mrs. Glegg. Se qualcuno della famiglia ha voglia di comprarli, può farlo, ma ogni cosa deve essere messa all'incanto, senza eccezioni. E non c'è da aspettarsi, disse zio Pallet, con insolita indipendenza di giudizio, che quelli della vostra famiglia paghino le cose più del prezzo che si raggiungono. Possono andare via per 4 soldi in un'asta. Dio mio, disse Mrs. Tulliver. Pensare che la mia porcellana vada venduta in questo modo, e io che l'avevo comperata quando ho preso marito, proprio come voi, Jane e Sophie, avete comperata la vostra. Lo so bene che la mia non vi piace per via di quel filetto, ma io la adoravo e non se n'è mai rotto nemmeno un pezzo, perché ero io che la lavavo e ci sono i tulipani sulle tazze e le rose, che è un piacere per chiunque di guardarle. Non sareste mica contente voi che la vostra porcellana fosse data via per 4 soldi e rotta in pezzi, quantunque la tua, Jane, non sia a colori. La tua è tutta bianca con le scanalature e non è costata quanto la mia. E poi ci sono i castori, sorella di Anne, e quelli per forza devo credere che vi piacerebbe di averli, perché l'ho sentito dire che sono molto belli. Bene, non ho nulla in contrario a comprare qualcuna delle cose migliori, disse Mrs. Dean con una certa maestosità. In casa nostra possiamo permetterci anche qualcosa di superfluo. Le cose migliori? Esclamò Mrs. Glegg con una severità che s'era fatta più intensa nel lungo silenzio. Mi fa uscir dai gangheri il sentirvi tutte parlare delle cose più belle e di comprar questa o quell'altra o quell'altra, argento e porcellana. Tu, Bessie, devi adattarti alla tua situazione, non stare a pensare all'argento e alla porcellana, ma piuttosto se vi rimarrà tanto come un materasso da dormirci sopra, e una coperta da mettervi addosso, e uno sgabello da sedervi. E ricordatevi che se vi rimarranno sarà in grazia dei parenti che li hanno comperati per voi, perché dipendete da loro in tutto e per tutto, dal momento che tuo marito è in fondo a un letto senza speranza e non ha un soldo al mondo che possa chiamarsi suo. E se parlo così è per il vostro bene, perché è giusto che sentiate qual è la vostra posizione e che razza di disonore tuo marito ha gettato sulla propria famiglia, alla quale dovete ricorrere per tutto, serbando uno spirito di umiltà. Mrs. Glegg si fermò, perché il parlare con tanta energia per il bene altrui è cosa che naturalmente esaurisce. Mrs. Tulliver, sempre tenuta in basso dal predominio familiare della sorella Jane, che fin dalla più tenera età le aveva fatto portare il giogo di sorella minore, disse, per scusarsi: Sono sicura, sorella, di non aver mai chiesto nulla a nessuno, se non di comperare delle cose che farebbe piacere di possedere, ed evitare così che vadano a rovinarsi in casa di estranei. Non ho mai chiesto a nessuno di comperare quelle cose per me e per i miei figliuoli, per quanto ci sia della biancheria che ho filata io. E quando Tom è venuto al mondo, pensavo, è stata una delle prime cose che ho pensato quando lo misero in culla, che tutto quel che avevo acquistato con i miei denari e conservato con tanta cura dovesse andare a lui. Ma non ho mai detto di volere che le mie sorelle spendessero i loro soldi per me. Quello che mio marito ha fatto per sua sorella nessuno lo sa, e noi oggi staremmo meglio, non fosse che gli ha imprestato quel denaro, senza mai chiederne la restituzione. Andiamo, andiamo, disse benevolmente Mr. Glegg, non dipingiamo le cose troppo in nero. Quel che è fatto non si può disfare. Troveremo tra di noi qualche espediente per comperarvi quanto vi basterà, sebbene, come dice Mrs. Glegg, dovranno essere cose semplici e utili. Non dobbiamo stare a pensare a quel che non è necessario. Una tavola, una o due sedie, gli arnesi di cucina, un buon letto e simili. In fede mia, ho veduto io dei giorni nei quali non mi sarei più riconosciuto se avessi dormito su un sacco invece che sul pavimento. Noi ci teniamo d'attorno un mucchio di cose inutili soltanto perché abbiamo dei soldi da sprecare. Mister Glegg, disse Mrs. Glegg, se sarete così gentile da lasciarmi parlare, invece di togliermi le parole di bocca, io stavo per dirti, Bessie, che c'è un gran bel discorso l'andare proclamando che non ci hai mai chiesto di comprare nulla per te. Lascia che te lo dica. Avresti dovuto chiedercelo. Di grazia, come faresti a pensare a te stessa se la tua famiglia non ti aiuta? Dovresti ricorrere alla parrocchia senza questo aiuto. Sono cose che dovresti sapere e tenerle a mente, pregandoci umilmente di fare quel che possiamo per voi, invece di dire che non ci hai mai chiesto nulla e fartene ancora un vanto. Parlavate dei MOS e di ciò che Mr. Tulliver ha fatto per loro, disse zio Pallet, che diventava insolitamente fervido quando si trattava di anticipi di denaro. Si sono fatti vivi? Anche loro hanno il dovere di adoperarsi in qualche modo, tale quale come gli altri. E se Tulliver ha prestato loro del denaro, bisognerà procurare che lo rendano. Oh sì, questo è certo, disse Mrs. Dean. Ho avuto anch'io la stessa idea. Com'è che Mr. e Mrs. Moss non sono qui con noi? Sarebbe più che giusto che essi contribuissero per la loro parte. Dio mio, disse Mrs. Tulliver. Non li ho neppure avvertiti dello stato di Mr. Tulliver. Abitano così lontano, tra i sentieri di Bassett, e non vengono mai a sapere nulla, se non quando Mr. Moss va al mercato. Ma io non ho nemmeno pensato a loro. Mi meraviglio che non l'abbia fatto Maggie, però, che è sempre stata così attaccata a sua zia Moss. E perché i tuoi figli non vengono qui, Bessie? Disse Mrs. Pallet all'udir parlare di Maggie. Dovrebbero sentire quello che le zie e gli zii hanno da dire. Quanto a Maggie, dal momento che sono stata io a sobbarcarmi le spese del collegio, dovrebbe pensare di più alla zia Pallet che alla zia Moss. Potrei mancare d'improvviso oggi stesso, tornando a casa. Non c'è nessuno che lo possa dire. Avessi potuto fare io a modo mio, disse Mrs. Glegg, i ragazzi sarebbero stati in questa stanza fin da principio. È tempo che sappiano ciò che li attende ed è giusto che qualcuno parli con loro e li metta al corrente della loro situazione nella vita. E quanto sono caduti in basso, e li avverta di quel che avranno da patire per gli errori del loro padre. Bene, andrò a chiamarli, sorella, disse Mrs. Tulliver rassegnata. Era ormai completamente sopraffatta e pensava ai tesori del suo ripostiglio senza altro sentimento che una vuota disperazione. Salì al piano di sopra a chiamare Tom e Maggie, che erano entrambi nella camera del babbo. E già stava ridiscendendo quando la vista della porta del ripostiglio le suggerì una nuova idea. Vi si diresse, lasciando che i ragazzi scendessero per conto loro. Le zie e gli zii parevano aver avuto una focosa discussione allorché fratello e sorella entrarono, irrigiditi ambedue dalla riluttanza, e quantunque Tom, con una sagacia pratica attivata dal forte stimolo delle nuove emozioni a cui era stato sottoposto, fin dalla vigilia, avesse architettato nella sua testa un piano che intendeva di proporre a qualcuno, o zia o zio, non riusciva tuttavia a provar per loro dei sentimenti amichevoli e temeva di incontrarli riuniti tutti in una volta, così come avrebbe temuto una forte dose di un rimedio concentrato, a malapena sopportabile in piccole gocce. Maggie, per parte sua, era quella mattina particolarmente accasciata. D'estata, dopo breve riposo alle 3 del mattino, sentiva quella strana, insonnolita fatica che proviene dall'aver vegliato nella stanza di un infermo nelle ore fredde del primo crepuscolo e del giorno nascente. Stato di fatica nel quale la vita esterna, alla luce del sole, sembra non avere importanza ed essere una semplice cornice delle ore trascorse nella stanza buia. Il loro entrare interruppe la conversazione. Le strette di mano furono una melanconica e tacita cerimonia finché zio Pallet osservò, mentre Tom si avvicinava a lui: Bene, giovinotto, qui si è chiacchierato come se si avesse bisogno della vostra penna e del vostro calamaio. Credo che ormai dovete saper scrivere eccezionalmente bene dopo tanti studi in collegio. Disse zio Glegg con una specie di ammonimento che voleva essere gentile. Ora dobbiamo vedere i buoni risultati di tutti questi studi per cui vostro padre ha buttato via tanto denaro. Ora è tempo, Tom, che ci dimostriate i vantaggi della vostra istruzione. Fateci vedere se sapete cavarvela meglio di me. Ma io ho cominciato contentandomi di poco, vedete? Io sapevo vivere con una scodella di zuppe e una crosta di pane e formaggio. Ma ho ben paura che la vita raffinata e gli studi superiori rendano queste cose più difficili per voi, giovinotto, di quanto fossero per me. Eppure dovrà adattarsi, interruppe energicamente zia Glegg, facile o difficile che sia. Non ha da pensare se sia difficile, ma piuttosto a non credere che i parenti lo mantengano nell'ozio e nel lusso. Bisogna che sopporti le conseguenze della cattiva condotta di suo padre e si prepari a vivere nei disagi e a lavorare sodo. E deve essere umile verso le zie e gli zii. È riconoscente di quel che stanno facendo per sua madre e suo padre, i quali si troverebbero sul lastrico senza il loro aiuto e dovrebbero andare all'ospizio. E sua sorella lo stesso, continuò Mrs. Glegg, guardando con severità Maggie, che si era seduta sul divano accanto a zia Dian, attratta verso di lei dall'idea che era la mamma di Lucy. Deve disporsi anche lei ad essere umile e a lavorare, perché oramai non avrà più delle cameriere per servirla, se ne ricordi bene. Dovrà fare i lavori di casa, rispettare e amare le zie che tanto hanno fatto per lei e risparmiato i denari per lasciarli ai nipoti. Tom era ancora in piedi davanti alla tavola, al centro del gruppo. Aveva in viso un colorito vivace ed era ben lontano dall'apparire umile, anzi, stava preparandosi a dire, in tono rispettoso, qualcosa che già aveva meditato in precedenza, allorché la porta si aprì e rientrò la mamma. La povera Mrs. Tulliver teneva in mano un piccolo vassoio su cui aveva disposto la teiera d'argento, un esemplare di tazze di sottocoppa, i tovaglioli e le molle dello zucchero. «Vieni qui, sorella», disse, volgendosi a Mrs. Dean mentre deponeva il piatto sulla tavola. «Ho pensato che forse se rivedevi questa teiera, è un bel pezzo che non la vedi più, ne avresti meglio apprezzato il disegno. Fa un tè squisito e poi ha anche il suo vassoio e tutti gli accessori. Potrai servirtene per tutti i giorni o anche tenerla per Lucy quando avrà la sua casa. Mi dispiacerebbe tanto di vederla comprare da quelli delle Ondoro», disse la povera donna col cuore gonfio e le lacrime che le spuntavano. «La mia teiera che ho comperata quando ho preso marito, e di pensare che sarà tutta graffiata e messa davanti ai viaggiatori e a simile gente, con le mie cifre sopra, ecco qui, Eddie, e che tutti la vedano. Santo cielo, disse zia Pallet, scuotendo il capo con profonda tristezza. È proprio terribile pensare che le iniziali di famiglia andranno dappertutto. Questo non era mai successo. Sei una sorella ben disgraziata, Bessie. Ma a che serve di comprare la teiera quando c'è la biancheria, i cucchiai e tante altre cose che se ne vanno, e alcune perfino col tuo nome per disteso, senza contare che la teiera ha il becco dritto. Quanto al disonore della famiglia, disse Mrs. Glegg, non vi si può rimediare comprando delle teiere. Il disonore è per una della famiglia ad aver sposato un uomo che l'ha ridotta alla mendicità. Il disonore è che siamo arrivati a una vendita pubblica. Non possiamo fare a meno che tutto il paese lo sappia. L'allusione al babbo aveva fatto balzare Maggie dal divano, ma Tom si accorse del suo movimento e del suo viso in fiamme in tempo per impedirle di parlare. «Sta calma, Maggie», le disse con autorità, traendola in disparte. Fu, per un ragazzo di 15 anni, una notevole manifestazione di dominio su se stesso e di giudizio pratico quella di mettersi a parlare quando zia Glegg tacque in maniera calma e rispettosa, quantunque con un forte tremito nella voce, perché le parole di sua madre l'avevano punto sul vivo. «Allora, zia», disse fissando Mrs. Glegg, «se credete che sia un disonore per la famiglia che la nostra roba sia messa all'asta, non sarebbe meglio impedirlo del tutto? E se voi e zia Pallet», continuò avvolgendosi a quest'ultima, «avete intenzione di lasciare del denaro a me e a Maggie, non sarebbe meglio darcelo subito, pagando il debito che ci costringe a questa vendita pubblica ed evitando che la mamma venga privata del suo mobilio?» Ci fu un silenzio di qualche istante, perché tutti, Maggie compresa, erano stupefatti di quella subitanea virilità di tono da parte di Tom. Zio Glegg fu il primo a parlare. «Giovinotto, vediamo un po', voi mostrate qualche pratica delle cose. Ma ci sono gli interessi, bisogna che ve ne rendiate conto. Le vostre zie prendono il 5% sul loro denaro e verrebbero a perderlo se facessero questo anticipo. A questo non avete pensato? Posso lavorare e pagarli tutti gli anni, disse Tom prontamente. Farei qualunque cosa pur di evitare a mia madre di separarsi dalle sue cose. Bene, disse zio Glegg con ammirazione. Era stato lui a mostrare la strada a Tom, senza riflettere più che tanto alla possibilità pratica della sua proposta, ma aveva ottenuto l'infausto risultato di irritare la propria moglie. «Sì, Mr. Glegg», disse la signora con sarcasmo collerico, «bel lavoro fate voi a distribuire il mio denaro, di cui pretendevate avermi lasciato la piena disponibilità. È denaro mio, dono di mio padre e non vostro, Mr. Glegg. Me lo sono risparmiato e accresciuto da me. E ne ho dovuto imprestare parecchio, quasi ogni anno. ora dovrebbe andare dilapidato nel mobilio degli altri per incoraggiarli in un lusso e in una condotta pazzesca che non hanno i mezzi di sostenere. E mi toccherebbe di cambiare il mio testamento o di fare un codicillo per poi lasciare 200 o 300 sterline di meno quando morirò? Proprio a me che ho sempre fatto tutte le cose per bene e sono sempre stata parsimoniosa, a me la maggiore della famiglia, e il mio denaro dovrebbe andarsene in fumo per gente che ha avuto le mie stesse possibilità, tali e quali, ma è stata sempre immorale e sprecona? Sorella Pallet, tu puoi fare quello che vuoi e lasciare che tuo marito ti spogli del denaro che ti ha dato. Ma la mia intenzione non è questa. Via, Jane, come sei focosa, disse Mrs. Pallet. Sono sicura che ti verrà il sangue alla testa e dovrai farti salassare. Io soffro per Bessie e per i suoi figlioli e sono certa che penserò a loro con spavento durante le mie notti, perché dormo molto male con questa nuova medicina. Ma è inutile che io pensi di fare qualche cosa se tu non mi vieni incontro. Bene, c'è un fatto da tener presente, disse Mr. Glegg. Non serve a niente di pagare il debito per salvare il mobilio quando si lasciano indietro tutti i debiti legali che porteranno via fino all'ultimo scellino e anche più di quanto si potrà ricavare dalla terra e dal magazzino. Questo l'ho saputo io dall'avvocato Gore. Dobbiamo risparmiare il nostro denaro per poter mantenere il pover'uomo invece di spenderlo nel mobilio, che non gli darà né da mangiare né da bere. Voi siete così impetuosa, Jane, come se io non sapessi quello che è ragionevole. Allora dimostratelo coi vostri discorsi, Mr. Glegg, gli disse la moglie con lenta e toccante eloquenza, tendendo il capo verso di lui in maniera significativa. La fermezza di Tom era venuta meno durante questa conversazione, il suo labbro tremava, ma egli era deciso a non cedere, voleva comportarsi da uomo. Maggie, al contrario, dopo la gioia momentanea che aveva provata al discorso di Tom, era ricaduta nel suo stato di tremante indignazione. La mamma era rimasta accanto a Tom e si era stretta al suo braccio fin da quando egli aveva terminato di parlare. Maggie si levò d'improvviso e si piantò in faccia a loro con gli occhi fiammeggianti, come quelli di una giovane leonessa. «Perché allora venite qui?» esplose. «A parlare, a immischiarvi nei fatti nostri, a criticarci, se poi non avete intenzione di far nulla per aiutare la mia povera mamma che è vostra sorella. Se non provate alcun sentimento per lei quando soffre e non volete fare il più piccolo sacrificio, anche se non vi costerebbe nessuna perdita per toglierla dagli affanni, lasciateci stare allora!» E non venite qui a dir male di mio padre. Egli era migliore di tutti voi, era buono e vi avrebbe aiutati se foste stati nei guai. Né Tom né io vorremmo mai accettare i vostri denari se non aiuterete la mamma. Preferiamo non averli, faremo senza di voi. Lanciata così la sua sfida alle zie e agli zii, Maggie rimase lì, con i suoi grandi occhi neri folgoranti su di loro, come fosse pronta ad affrontare tutte le conseguenze. Mrs. Tulliver era atterrita. C'era qualche cosa di sinistro in questo folle sfogo. Ella non riusciva a comprendere come dopo di esso la vita potesse ancora continuare. Tom era contrariato. Non serviva a nulla di parlare così. Le zie rimasero mute dalla sorpresa per alcuni momenti. Alla fine, in un caso di aberrazione come quello, i commenti si presentarono più comodi che qualunque risposta. «Non hai ancora veduto la fine dei tuoi guai, Bessie, con questa figliola?» disse Mrs. Pallet. «Passa tutti i limiti della sfrontatezza e dell'ingratitudine. È terribile. Avrei potuto fare a meno di pagarle il collegio. Tanto è peggiore che mai.» «Non peggiore di quel che io ho sempre detto», continuò Mrs. Glegg. «Gli altri possono sorprendersi, ma io no. L'ho detto e ripetuto tante volte. Sono anni che l'ho detto. Tenete a mente le mie parole. Questa bambina non approderà niente di buono. Non c'è un'unghia della nostra famiglia in lei. E quanto a mandarla in collegio, per quanto tempo, io non ho mai creduto che fosse un bene. Avevo le mie ragioni, quando ho detto che non tiravo fuori nemmeno un soldo per quel collegio. Via, via, disse Mr. Glegg, non perdiamo più tempo in chiacchiere, veniamo agli affari. Tom, adesso prendete penna e calamaio. Mentre Mr. Glegg stava parlando, una piccola figura nera fu veduta passare in fretta davanti alla finestra. «Ma guarda, c'è Mrs. Moss», disse Mrs. Tulliver. «Le cattive notizie devono essere arrivate fino a lei, dunque», ed uscì per aprire la porta. Maggie la seguì d'impeto. «È una fortuna. disse Mrs. Glegg così, potrà approvare anche lei la lista delle cose da acquistarsi. È più che giusto che entri anche lei per la sua parte, dal momento che si tratta di suo fratello. Mrs. Moss era troppo agitata per resistere a Mrs. Tulliver, che la spinse nel salotto macchinalmente, senza riflettere che era poco gentile di cacciarla tra tante persone nel primo penoso momento del suo arrivo. Quell'alta e consunta donna dai capelli scuri fece uno stridente contrasto con le sorelle Dodson quando entrò. Meschinamente vestita, con quello scialle e quel cappello che doveva essersi messa alla svelta e con quella completa mancanza di controllo che è tipica dei dolori profondamente sentiti. Maggie si teneva stretta al suo braccio e Mrs. Moss parve non accorgersi di nessuno fuorché di Tom, al quale andò incontro prendendogli la mano. «Oh, miei cari figlioli!» esclamò. «Voi non avete proprio motivo di pensar bene di me. Sono una ben povera zia per voi, perché sono di quelle che prendono sempre e non danno mai nulla. Come sta il mio povero fratello?» «Mr. Turnbull crede che vada meglio», disse Maggie. «Sedetevi, zia Gritty, non vi allarmate.» «Oh, miei cari bambini, è uno strazio per me», disse Mrs. Moss, lasciando che Maggie la conducesse al divano, ma non dando ancora segno d'accorgersi della presenza degli altri. «Noi abbiamo 300 sterline di debito con mio fratello, ed ora egli ne ha bisogno, e tutti voi ne avete bisogno, poveretti. E tuttavia, per pagare, sarebbe necessario che le nostre cose andassero all'asta.» E ci sono i miei poveri bambini, 8, e la piccola non sa nemmeno ancora parlare, e a me pare di essere una ladra, ma sono ben sicura di non aver mai pensato che mio fratello. La povera donna fu interrotta da uno scoppio di singhiozzi. 300 sterline! Oh, mio Dio! Disse Mrs. Tulliver, la quale, dicendo poc'anzi che suo marito aveva fatto per sua sorella cose che nessuno sapeva, non aveva in mente alcuna somma precisa. E provò una irritazione di moglie all'idea di essere stata tenuta all'oscuro. «Ah, che follia, certo!» disse Mrs. Glegg. «Un uomo che aveva famiglia non aveva il diritto di imprestare il proprio denaro a quel modo, e senza garanzia, lo giurerei, se si potesse sapere la verità!» La voce di Mrs. Glegg aveva attratto l'attenzione di Mrs. Moss, che alzando gli occhi disse: «Sì, la garanzia c'era, mio marito ha rilasciato una cambiale. Non siamo gente, noi, nessuno di noi, capace di derubare i bambini di un fratello, e contavamo di restituire il denaro appena i tempi fossero un po' migliori. Bene, ma adesso», disse Mr. Glegg cortesemente, «vostro marito non può trovar modo di mettere insieme quel denaro? Perché sarebbe una piccola fortuna, o quasi, per questa gente, se ci si potesse aggiustare senza che Tulliver facesse bancarotta. Vostro marito ha del bestiame, sarebbe più che giusto che gli si procurasse quel denaro, a mio modo di vedere, non già che io non sia spiacente per voi, Mrs. Moss. Signor mio, voi non sapete che sfortuna ha avuto mio marito col suo bestiame. La fattoria soffre come non aveva sofferto mai per mancanza di bestiame, e abbiamo venduto tutto il frumento e siamo in arretrato con l'affitto. Certo che vorremmo fare quel che è giusto, ed io starei su a lavorare metà della notte se potesse servire a qualche cosa, ma ci sono quei poveri bambini, e 4 così piccoli ancora. Non piangete così, zia, non vi crucciate, mormorò Maggie, che continuava a tenere la mano di Mrs. Moss. E Mr. Tulliver ve l'ha dato tutto in una volta, quel denaro? Disse Mrs. Tulliver, ancora smarrita nel pensiero delle cose che erano avvenute a sua insaputa. No. «In 2 volte», disse Mrs. Moss, asciugandosi gli occhi e facendo uno sforzo per trattenere le lacrime. «L'ultima fu dopo la mia malattia grave, 4 anni fa, che tutto andava a rovescio, e si fece allora una nuova cambiale. Tra malattie e disgrazie, io non sono stata che un ingombro per tutta la mia vita.» «Sì, Mrs. Moss», disse Mrs. Glegg con decisione, «la vostra è una famiglia ben disgraziata, e per questo mia sorella fa tanta più pena.» «Sono partita con la carretta appena ho saputo quello che era successo», disse Mrs. Moss guardando Mrs. Tulliver. «Non avrei tardato tanto tempo se voi aveste creduto bene di avvertirmi, e non pensate che io mi preoccupi soltanto di noi e non di mio fratello, ma l'idea di quel denaro mi gira talmente per la testa che non ho potuto trattenermi dal parlarne. E mio marito ed io desideriamo di fare quello che è giusto, signor mio», soggiunse volgendosi a Mr. Glegg. «E vada come vuole, troveremo il sistema di rendere il denaro, se è il solo su cui mio fratello possa fare assegnamento. Alle difficoltà ci siamo abituati e dalla vita non ci aspettiamo altro. È soltanto il pensiero dei miei poveri bambini che mi strazia.» Già, bisogna pensare anche ad un'altra cosa, Mrs. Moss, disse Mr. Glegg, ed è bene che ve ne siate avvertita. Se Tulliver fa bancarotta e ha una cambiale di 300 sterline firmata da vostro marito, voi sarete obbligata a pagarla, i curatori verranno da voi per esigere. Oh mio Dio, disse Mrs. Tulliver, pensando alla bancarotta e non già al modo come Mrs. Moss vi sarebbe stata coinvolta. La povera Mrs. Moss ascoltava anche lei con tremante sottomissione, mentre Maggie, attonita e disperata, guardava Tom per vedere se gli dava segno di comprendere questa disgrazia e si prendeva a pensiero della povera zia Moss. Tom pareva soltanto pensoso, con gli occhi fissi sulla tovaglia della tavola. E se non gli fanno fare bancarotta? Continuò Mr. Glegg. 300 sterline, l'ho già detto, possono costituire una piccola fortuna per lui, pover'uomo. Noi sappiamo soltanto che se gli riesce ancora di alzarsi potrà essere parzialmente privo delle sue facoltà. Mi dispiace molto se questo costituisce per voi una difficoltà, Mrs. Moss, ma la mia opinione è, per un verso, che voi avete il dovere di trovare quel denaro e per un altro verso che sarete costretti a pagare. Non penserete male di me se vi ho detto la verità. Zio, disse Tom, alzando improvvisamente gli occhi dalla sua meditabonda contemplazione della tovaglia. Non credo che zia Moss debba rendere quel denaro, se ciò è contrario alla volontà di mio padre, non è vero? Mr. Glegg ebbe per un momento o due un'aria sorpresa prima di dire: Già, no, forse, forse no, Tom, ma in tal caso, lo sapete, gli avrebbe distrutto la cambiale. Noi dobbiamo cercare quella cambiale. Che cos'è che vi fa pensare che sia contrario alla sua volontà? Ecco, disse Tom arrossendo, ma tentando di parlare con fermezza ad onta di un fanciullesco tremore. Mi ricordo benissimo che una sera, prima che io andassi in collegio da Mr. Stelling, il babbo mi disse, mentre eravamo seduti insieme accanto al fuoco e non c'era nessun altro nella camera, Tom esitò un momento e poi continuò. Mi disse qualcosa riguardo a Maggie e poi soggiunse: Io sono sempre stato buono con mia sorella, quantunque si sia maritata contro il mio volere, e ho imprestato dei denari a Moss, ma non mi verrà mai in mente di mettergli il sequestro perché me li renda. Preferirei di perderli. I miei figli non devono per questo considerarsi più poveri, eh? E ora che il babbo è ammalato e non è in grado di parlare lui, non vorrei mai che si facesse qualche cosa di contrario a ciò che egli mi ha detto. Bene, ma allora, figlio mio, disse zio Glegg, portato dai suoi buoni sentimenti ad assecondare i desideri di Tom, ma incapace di scuotersi di dosso tutto in una volta il suo abituale orrore per una così grande negligenza come quella di distruggere delle garanzie o alienare cose di entità abbastanza notevole per costituire un'apprezzabile differenza nel capitale di una persona, bisognerebbe che distruggessimo quella cambiale. Lo sapete bene, se vogliamo metterci al sicuro da ciò che può succedere. Nel caso che vostro padre venga dichiarato in bancarotta. Mr. Glegg, lo interruppe severamente sua moglie, pensate a ciò che dite. Voi vi ingerite un po' troppo negli affari degli altri. Se parlate avventatamente, non dite poi che è stata colpa mia. Ah, cose di questo genere io non ne avevo mai sentite, disse zio Pallet, che si era spicciato a inghiottire la sua pasticca per esprimere il proprio stupore. Distruggere una cambiale. Credo che chiunque potrebbe denunciarvi alla giustizia per una cosa simile. Bene, ma, disse Mrs. Tulliver, se la cambiale vale tutto quel denaro, perché non possiamo darla in pagamento e impedire che il mio mobilio vada disperso? Noi non dobbiamo entrarci negli affari di tuo zio e di tua zia Mostom, se anche tu credi che il babbo possa andare in collera quando starà bene. Mrs. Tulliver non aveva studiato la questione cambiaria e arzigogolava in base a concetti tutti personali in materia. Po', voi donne non ne capite niente di queste cose, disse zio Glegg. Per mettere al sicuro, Mr. e Mrs. Moss non c'è altro mezzo che distruggere la cambiale. Allora, spero che mi aiuterete a farlo, zio, disse Tom con ardore. Se mio padre non dovesse guarire, sarei molto triste di pensare che contro la sua volontà è stato fatto qualcosa che io potevo impedire. E la sua intenzione, ne sono certo, era che io tenessi a mente ciò che mi disse quella sera. Ho il dovere di obbedire alla volontà di mio padre per ciò che concerne i suoi averi. Neppure Mrs. Glegg poté rifiutare la sua approvazione alle parole di Tom. Sentiva che il sangue dei Dodson si esprimeva in lui, quantunque Se suo padre fosse stato un Dodson, quella dannata perdita di denaro non sarebbe avvenuta. A stento Maggie si sarebbe trattenuta dal gettare le braccia al collo di Tom se zia Moss non l'avesse preceduta, alzandosi e prendendogli la mano, mentre diceva con voce quasi soffocata: «Voi non sarete mai più povero per questo, caro il mio figliuolo, se c'è un Dio lassù, e se quel denaro è necessario a vostro padre, Moss e io lo rimborseremo, tale quale come se ci fosse la garanzia. Faremo quello che vorremmo fosse fatto a noi, perché se i miei bambini non hanno avuto la fortuna, almeno hanno un padre e una madre onesti». «Bene», disse Mr. Glegg, che era rimasto meditabondo dopo le parole di Tom. «Noi non faremo alcun torto ai creditori nel caso che vostro padre sia dichiarato in bancarotta. Sono cose alle quali ho pensato perché sono stato creditore io stesso e ho visto delle frodi da non finirne mai più. Se ha avuto intenzione di dare il denaro a vostra zia prima di cacciarsi in questo brutto pasticcio della causa, è tutt'uno come se avesse distrutto egli stesso la cambiale perché aveva deciso di spogliarsi di quella somma. Ma c'è un sacco di cose da tenere presenti, giovanotto», soggiunse Mr. Glegg lanciando a Tom uno sguardo ammonitore. «Quando si trattano affari di denaro e voi non potete portar via la cena a uno per dar la colazione a un altro, voi non le capite queste cose, forse?» «Sì che le capisco», disse Tom con fermezza. «So bene che se devo del denaro a qualcuno non ho il diritto di darlo ad altri, ma se mio padre aveva deciso di regalare quei soldi alla zia prima di essere indebitato, era in diritto di farlo». «Benedetto giovinotto, non vi credevo così accorto», disse zio Glegg con molto candore. «Ma può darsi che vostro padre abbia già distrutta la cambiale. Andiamo a vedere se possiamo trovarla nello scrigno». «È nella stanza del babbo. Andiamoci anche noi, zia Gritti», sussurrò Maggie. 4. Barlume passeggero. Mister Tulliver, anche fra le crisi di spasmodica rigidità che gli tornavano a intervalli da quando l'avevano raccolto dopo la caduta da cavallo, era d'ordinario in uno stato di tale apatia che non dava alcuna importanza all'uscire e all'entrare della gente in camera sua. Tutta quella mattina era rimasto così tranquillo, ad occhi chiusi, che Maggie aveva avvertito la zia Moss di non aspettarsi che il babbo si accorgesse di loro. Entrarono molto piano e Mrs. Moss si mise a sedere presso il capezzale, mentre Maggie prendeva il suo solito posto accanto al letto e metteva la mano in quella del babbo, senza che sul viso di lui si producesse cambiamento alcuno. Mr. Glegg e Tom erano entrati anche loro con passo leggero ed erano intenti a scegliere la chiave del vecchio scrigno di quercia tra quelle di un mazzo che Tom aveva portato dallo studio del babbo. E riuscirono ad aprire lo scrigno, ed era dirimpetto ai piedi del letto di Mr. Tulliver, e a fissarne il coperchio col gancio di ferro, senza fare troppo rumore. «C'è qui una scatola», sussurrò Mr. Glegg. «È molto probabile che una cosa piccola come una cambiale l'abbia messa lì dentro. Prendetela, Tom, ma io prenderò anche questi atti, credo che siano quelli concernenti la casa e il mulino, per vedere cosa contengono». Mr. Glegg aveva tirato fuori le pergamene e per fortuna si era fatto un po' indietro quando il gancio di ferro cedette e il pesante coperchio cadde con un colpo greve che risuonò per tutta la casa. C'era forse in quel rumore qualcosa di più che il semplice fatto di una forte scossa che produsse il suo effetto istantaneo sull'organismo del malato, e infatti vinse per il momento tutta l'insensibilità della paralisi. Lo scrigno aveva appartenuto a suo padre e al padre di suo padre, e il guardarvi dentro era stato sempre una cerimonia quasi solenne. Tutti gli oggetti conosciuti da lungo tempo, perfino la semplice serratura di una finestra, o lo speciale saliscendi di una porta, hanno dei rumori che sono per noi una specie di voce familiare, una voce che ha potere di commuoverci e di risvegliarci quando fu solita di toccare le nostre fibre profonde. In quel preciso momento, mentre tutti gli occhi erano fissi su di lui, Mr. Tulliver balzò sul letto e fissò lo scrigno, le pergamene in mano di Mr. Glegg e Tom, che teneva la piccola scatola, con uno sguardo di piena consapevolezza e lucidità. «Che volete fare con quegli atti?» disse col solito tono di brusca interrogazione che aveva quando era irritato. «Vieni qui, Tom, che fai lì presso il mio scrigno?» Tom lo obbedì con un certo tremore. Era la prima volta che suo padre lo riconosceva. Ma invece di parlare ancora con lui, il babbo continuò a guardare con crescente sospetto Mr. Glegg e gli atti. Cosa sta succedendo dunque? Disse con asprezza. Che vi impicciate dei miei atti? Forse che Wakem sta appropriandosi tutto? Perché non mi dite che cosa state facendo? Soggiunse con impazienza mentre Mr. Glegg si accostava ai piedi del letto prima di parlare. No, no, caro Tulliver, disse Mr. Glegg con voce conciliante. Nessuno sta appropriandosi di nulla per ora. Siamo solo venuti a vedere e ad esaminare quello che c'era nello scrigno. Voi siete stato malato, lo sapete, e noi abbiamo dovuto accudire un poco alle cose, ma speriamo che vi rimetterete presto in modo da potervi occupare voi stesso di tutto. Mr. Tulliver guardò intorno a sé pensosamente. Tom, Mr. Glegg e Maggie. E poi d'improvviso parve rendersi conto che qualcuno stava seduto presso di lui, alla testiera del letto, e voltosi bruscamente vide sua sorella. «Ehi, Gritty!» disse in quel tono un po' triste e affettuoso con cui era solito di parlarle. «Come? Tu sei qui? Come hai fatto a lasciare i tuoi bambini?» «Oh, fratello!» disse la buona Mrs. Moss, troppo impulsiva per essere prudente. «Ringrazio il cielo d'essere venuta ora e di vederti meglio. Credevo che non ci avresti mai più riconosciuti.» «Come? Ho avuto un colpo?» disse Mr. Tulliver con ansia guardando Mr. Glegg. «Una caduta da cavallo, una scossa un po' forte, ecco tutto, credo», disse Mr. Glegg. «Ma vi rimetterete presto, speriamo.» Mr. Tulliver si mise a fissare le coperte e rimase in silenzio per 2 o 3 minuti. Una nuova ombra scese sul suo volto, poi alzò gli occhi verso Maggie e le disse a bassa voce: «L'hai tu la lettera, allora, mia piccola?» «Sì, babbo», ella disse, baciandolo con tutto il cuore. Era come se il babbo le fosse tornato indietro dalla morte e il suo ardente desiderio di mostrargli quanto gli aveva sempre voluto bene potesse essere appagato. «Dov'è tua madre?» egli disse, così preoccupato che ricevette quel bacio passivamente come un animale mansueto. «È di sotto con le zie, babbo. Devo andare a chiamarla?» «Povera Bessie!» E i suoi occhi si volsero verso Tom mentre Maggie lasciava la camera. «Se muoio dovrai pensare tu a loro due, lo sai, Tom? Sarete in tristi condizioni, ho paura. Ma tu dovrai fare in modo di pagare tutti, eh? Ricordati, ci sono 50 sterline di Luke che io ho impiegato nell'affare. Me le aveva date a poco per volta e non ha nessuna ricevuta per dimostrarlo. Sarà il primo che dovrete rimborsare.» Zio Glegg scosse involontariamente il capo e parve più inquieto che mai, ma Tom disse con fermezza: «Sì, babbo, e non hai una cambiale di 300 sterline rilasciata dallo zio Moss? Eravamo venuti a cercare quella. Cosa vuoi che ne facciamo, babbo?» «Ah, sono contento che tu ci abbia pensato, ragazzo mio», disse Mr. Tulliver. «Ho sempre avuto l'intenzione di transigere su quel denaro per via di tua zia. Non devi inquietarti di perdere quei soldi. Se loro non possono renderli, è abbastanza probabile che non possano. La cambiale è in quella scatola, ricordati. Io ho sempre cercato di essere buono con te, Gritty», disse Mr. Tulliver, volgendosi verso la sorella. «Ma lo sai che mi hai fatto dispiacere quando hai voluto prenderti Moss?» In questo momento Maggie rientrò con la mamma, che giungeva molto agitata per la notizia che il marito era completamente tornato in sé. «Ebbene, Bessie», disse questi, mentre ella lo baciava, «devi perdonarmi se sei in condizioni peggiori di quel che ti saresti mai aspettata.» «Ma è colpa della legge, non mia», soggiunse con irritazione. «La colpa è dei bricconi. Tom, ricordati di questo. Se mai te ne capiterà il destro, fai in modo che Wakem la sconti. Se no, sei un figlio buono a nulla. Tu puoi prenderlo a frustate, ma lui metterà la legge contro di te. La legge è fatta per tutelare i bricconi.» Mr. Tulliver cominciava ad agitarsi e un rossore allarmante s'era diffuso per la sua faccia. Mr. Glegg voleva dire qualcosa di tranquillante, ma fu prevenuto da Mr. Tulliver, che tornò a parlare con la moglie. «Si troverà il mezzo di pagar tutto, Bessie», le disse, «e di lasciarvi i mobili, e le vostre sorelle faranno qualcosa per voi. Poi Tom crescerà, per quanto non so quel che potrà diventare. Io ho fatto ciò che potevo, gli ho dato un'educazione, e poi c'è la piccola, si sposerà. Ma è una povera storia.» L'effetto benefico di quella forte scossa era esaurito, e alle ultime parole il pover'uomo ricadde rigido e insensibile. Per quanto non si trattasse che di una ripetizione di ciò che era già accaduto prima, tutti i presenti ne furono colpiti come se fosse stata la morte stessa, non soltanto per il contrasto con quella reviviscenza così completa, ma perché tutte le sue parole avevano avuto un rapporto con la possibilità che la morte fosse vicina. Ma per il povero Tulliver, la morte non doveva essere un brusco trapasso, bensì una lenta discesa nell'ombra, sempre più densa. Fu chiamato Mr. Turnbull, ma quando egli seppe ciò che era successo, disse che quel completo ritorno in sé, per quanto momentaneo, era buon segno, giacché dimostrava che non c'era una lesione organica che impedisse la perfetta guarigione. Tra i fili del passato che il disgraziato aveva raccolti, s'era dimenticato della tratta di vendita. Quel lampo della memoria aveva soltanto portato a galla le idee più importanti ed egli era ricaduto nell'amnesia, senza essersi reso conto di una buona metà della sua umiliazione. Ma Tom aveva davanti a sé due punti ben chiari: che la cambiale di zio Moss doveva essere distrutta e il denaro di Luke restituito, se non altrimenti coi soldi suoi e di Maggie depositati alla cassa di risparmio. C'erano degli argomenti, voi lo vedete, nei quali Tom si mostrava più sveglio che nelle eleganze della costruzione classica o nei rapporti di una dimostrazione matematica. 5. Tom applica il suo coltello all'ostrica. Il giorno dopo, alle 10, Tom era sulla strada di St. Ogg's per andare a far visita allo zio Dean, che doveva essere tornato a casa la sera prima, secondo aveva detto la zia. E Tom si era persuaso che lo zio Dean era proprio la persona a cui chiedere consiglio per trovare un impiego. Si trovava in un gran giro di affari, non aveva le idee ristrette dello zio Glegg e s'era fatto avanti nel mondo con una serie di progressi graduali che rispondevano alle aspirazioni di Tom. Era una mattina scura, fredda e nuvolosa, che probabilmente sarebbe andata a finire in pioggia. Una di quelle mattine in cui perfino la gente felice cerca rifugio nella speranza. E Tom era molto infelice. Sentiva l'umiliazione non meno che le dure prospettive della sua sorte, con tutta l'amarezza di una natura orgogliosa. E al risoluto sentimento dei suoi doveri verso il padre si mescolava un invincibile corruccio contro di lui, che dava alla disgrazia il meno tollerabile aspetto di un errore. S'eran queste le conseguenze dell'essersi cacciato in una causa. Il babbo era veramente biasimevole, come gli zii e le zie non avevano mai cessato di dire. Ed ecco un significativo indizio del carattere di Tom. Quantunque pensasse che le zie avevano l'obbligo di fare qualcosa di più per sua madre, egli non provava nulla di simile a quel violento risentimento di Maggie contro di loro, che non mostravano più viva tenerezza e generosità.